Allora abbiamo detto che nel versetto dei Salmi che dice Mimma Amakim, ti chiamo a Kadosh Baruch Hu dalle profondità, e abbiamo spiegato che la profondità della persona risveglia, per così dire, la profondità nel divino, cosa che fa sì che si possa, diciamo così, riempire il vuoto, colmare ciò che è mancato a causa della non messa in atto della mitzvah. Ora nella pagina 5, alla voce al capitolo 7, Zain, ci spiega che è questo proprio ciò che si risveglia durante soprattutto Rosh Hashanah. Vediamo il testo. Vehineh gilui bechinazo veratzon ze. La rivelazione, cioè il momento in cui si manifesta questo livello e questa volontà divina, Mitgaleh b'Rosh Hashanah, si rivela proprio e si manifesta proprio durante Rosh Hashanah. Perché Rosh, il capo, la testa, a livello cabalistico c'è scritto che è un riferimento a una parte specifica della testa, e cioè non al cervello che è il contenuto della testa. Per testa si intende il cranio che circonda la testa, circonda il cervello, circonda il contenuto, quindi la parte esterna. Per circonda, cabalisticamente parlando, si intende una cosa che è più elevata. Quindi se il cervello è la sede della Chokhmah, dell'intelletto, Chokhmah Binah Daat, i tre livelli dell'intelletto della persona, il Rosh rappresenterebbe qualche cosa che va al di là della ragione, quindi al di là della Chokhmah. E per questo si chiama il segreto del nome Rosh Hashanah. La testa significa appunto un'allusione a una rivelazione che va oltre le vie normali della ragione. Allora, come dice il testo, appunto si rivela Rosh Hashanah, Shehu, Chinat Rosh, Vegulgalta Dechafia Almocha. È un riferimento in aramaico al cranio che circonda, o che è al di sopra del cervello. Quindi sulle mala mala mi mishkan chokhmah bina vadat indica un livello, corrisponde quindi a un livello spirituale che è molto al di là della sede della chokhmah, della saggezza, dell'intelletto. Questa cosa non è solamente limitata a Rosh Hashanah stesso, gamba sarati aserite mei teshuva, anche durante i giorni successivi, quindi tutti i 10 giorni della teshuva, durante i quali c'è l'usanza di molti di appunto recitare proprio questo salmo qui, Shiramalot Mimamakim, dalle profondità. Shekola seret yemei tshuva, Omrim Hamizmor, si recita il salmo Mimamakim Keraticha, ti chiamo dalle profondità. Per questo, tornando al versetto originale con il quale abbiamo aperto tutto questo discorso, dove è scritto Tikeu Bachode Shofar, Tikeu significa suonate lo shofar Bachodesh quando si rinnova il mese, come abbiamo spiegato nella prima lezione di questa serie. Pirush Tiku, quando dice suonate, Tkiah hu kol pashut, che tipo di suono è la Tkiah? È un suono semplice, non è un suono modulato o variegato, un suono semplice, è un suono che esce fuori dall'interno del cuore. Ayotze mehevel alev mipnimiyuto. E questo suono semplice va a rappresentare un richiamo del cuore, un pianto del cuore, Ubchinatza Katalev, Hayotzet, che fuoriesce non solamente dal cuore, ma proprio dall'interiore, dalla parte più interna, Mipenimita Lev, che è considerata appunto anche questa le Mala Mala Mea Chochma, ovvero. Una persona quando piange profondamente per un motivo profondo che lo tocca profondamente, piange a volte perché non trova le parole. Non solo non trova, ma è impossibile esprimere certi sentimenti attraverso la parola. Perché appunto noi abbiamo spiegato a livello cabalistico che questo legame, questa profondità, è qualcosa che va al di là della ragione. Ciò che va al di là della ragione È difficile o impossibile che si esprima attraverso la parola, perché la parola è considerata una cosa che è un veicolo dell'intelletto, deriva dalla Chokhmah, ma qualcosa che va al di là della Chokhmah è difficile, appunto, o impossibile che si esprima attraverso una parola. Shadibur nimshach mibchinat Chokhmah, poiché, appunto, la parola deriva dal livello di Chokhmah. Moshe Katuv, come è scritto, Hashem bechokhmah yasad aretz. Il Signore creò la terra basandosi sulla Chokhmah. Noi sappiamo che HaKadosh Baruch Hu crea attraverso la parola e si associa questa stessa creazione con la Chokhmah. Quindi una parola, un parlare derivante dall'intelletto divino, per così dire, dai livelli legati all'intelletto. Ed ecco perché nello stesso salmo che stavamo citando, ovvero quello di Mamakim, le profondità, è scritto lì, Ve'alze ne'emar shim'a bekoli, ascolta la mia voce. Ma non dice come diremmo in italiano ascolta la mia voce, in ebraico si direbbe shema lekoli, ascolta la mia voce. Sarebbe con una lamed, con una L. Invece qui c'è scritto bekoli, come se avesse detto ascolta nella mia voce. E quindi questa è un'allusione per dire ascolta cosa c'è all'interno della voce. Pirush significa, allude, becoli, mashe betoccoli, non ascoltare la mia voce, ascolta cosa c'è all'interno della voce, ovvero qual è la sua spinta interiore, da hainu tochiuto upnimiuto, e che cosa c'è effettivamente? Shu bechinat pnimiuta lev. C'è l'esprimersi e l'espressione della parte interiore del cuore, che in un certo senso sicuramente non si può esprimere nella parola come dicevamo, ma in un certo senso neanche si può esprimere nella voce. La voce rappresenterebbe, come spiega qui adesso, rappresenterebbe la parte esterna del cuore e la parte interna in qualche maniera è nascosta lì dentro. È come se si nascondesse in un'espressione esterna, già non limitata a delle parole, ma sempre un'espressione esterna alla voce, che nasconde o include in sé, racchiude dentro di sé, la parte più interiore e più interna del sentimento del cuore. Vesehu Bachodesh, ed è questo il senso di quanto dice Bachodesh, suonate lo shofar Bachodesh. Cosa significa? Non è solamente il rinnovo del mese, ma il rinnovo della creazione. Pirush significa Chidush ha'olamot me'ain le'yesh, il rinnovo della esistenza dei mondi, della creazione, dal nulla a qualcosa. Hamitchadshim bechol rosh hashanah, che viene rinnovato, questa creazione è rinnovata ogni rosh hashanah, bidvar Hashem veruach piv, con la parola divina e l'alito della sua bocca, per così dire, o aliedeit kia, per poter far sì che ci sia bachodesh, appunto che ci sia questo rinnovo, serve che ci sia tiku bachodesh, fate la tkia, fate il suono, ovvero nel senso più approfondito, tirate fuori, cercate di elicitare dall'interno del vostro cuore un sentimento molto profondo che non si può esprimere nella parola, e quindi dall'alto viene risvegliata una simile espressione molto profonda, Shehi Hamshachat, che riesce appunto a risvegliare dall'alto Pnimiut Oneg Verazon Urezon Elion Baruch Hu, un piacere nel voler creare e una volontà di voler creare da parte di HaKadosh Baruch Hu, Shelemala mala mibchinat chokhmah, che è molto al di là di ciò che si chiama il livello, appunto, che abbiamo detto di chokhmah, quindi di nuovo l'intelletto. E tutto ciò si esprime nell'atto pratico bibchinat shofar, del suonare lo shofar. Da una parte appunto l'atto pratico e dall'altra parte il senso interno di suonare lo shofar, e qui abbiamo un'altra allusione nella parola stessa di shofar, Shehu Inyan, che è legato all'idea di, è legata la parola all'idea di Shaperu Maasechem. Shofar significa, c'è anche un verbo molto simile, le stesse lettere, Shaperu. Migliorate, migliorare le vostre azioni, migliorare i vostri comportamenti. Questo, tra l'altro, come dirà, è anche il senso del nome della levatrice, Shifra, di cui leggiamo nella parasha di Shemot, che c'erano due donne ebree che facevano, aiutavano le partorienti a partorire, Shifra e Pu'ah. La tradizione vuole che Shifra sia Yocheved, la mamma di Mosè. Ma qual è il senso allora del nome Shifra? Se si chiama Yocheved, a cosa serve l'altro nome? Effettivamente il nome indica... effettivamente il nome indica la sua, il suo mestiere, perché Shifra Shemeshaperet et Avelad, che migliora il bambino, il nascituro. Hainu Shebchinat Oneg Elyon Verazon Elyon Shelemala Misedre Ishtashalut Yebchinat Gilu Yot Giloi Malchuto Yitbarach Lemata. Significa, cosa significa migliorare, miglioramento? Miglioramento significa che la volontà di Hashem si riveli nel rinnovo della creazione in una maniera concreta ed effettiva in questo mondo. Ed ecco perché prima di suonare lo shofar c'è una serie di versetti tra cui si legge Allah Elohim Bitrua Hashem Bekol Shofar. Il Signore sale accompagnato dal suono della teruà, che è il suono modulato che noi facciamo quando suoniamo lo shofar. Invece Hashem, e qui fa riferimento non al nome Elohim, ma al tetragramma, Bekol Shofar, sale con il suono dello shofar, senza indicare che tipo di suono. Perché effettivamente il salire, l'elevazione del nome, di ciò che è espresso nel nome Elohim, dal basso verso l'alto, si effettua attraverso una teruà. Di nuovo un'altra allusione: nella parola teruà troviamo la parola reut. Reut significa amicizia, volersi bene, affetto. E quindi il comportamento di il comportamento positivo dal basso verso l'alto fa sì che poi dall'alto verso il basso ci sia, appunto, attraverso il kol shofar, shofar quindi livello più elevato, ciò che abbiamo detto prima è come se dicessimo miglioramento, una rivelazione, viene portato dall'alto verso il basso. Come dire che questa amicizia, tra virgolette, chiaramente, o affetto meglio, si esprima a causa di quello che è dimostrato da noi verso l'alto, si esprima poi dal alto verso il basso. E allora c'è scritto Vayhi Bishurun Melech, che in Israele, Yeshurun è un sinonimo di Israele, in Yeshurun, in Israele, c'è un re, Yahad Shivtei Israel. E tutte le tribù sono yahad, sono insieme, ovvero le tribù shivtei, shevatim in ebraico, significa anche rami. Quando i vari rami riconoscono di derivare dalla stessa fonte e quindi sono tutti uniti, allora possiamo dire che c'è un re. E per noi cosa significa questo? La presenza del re significa l'espressione di HaKadosh Baruch Hu nell'attributo di Malchut. Questo a sua volta cosa vuol dire? In termini molto semplici, l'esprimersi attraverso l'attributo di Malchut significa che HaKadosh Baruch Hu crea il mondo, perché è solo attraverso la creazione del mondo che egli si esprime come re. Come abbiamo spiegato all'inizio, il re è considerato tale solo quando c'è un effettivo popolo. Una persona da sola al mondo non può essere re. E così usiamo questa metafora per dire che HaKadosh Baruch Hu si esprime nella Malchut qualora esiste la creazione. Allora, quando è che esiste il Melech? Quando c'è il regno, quindi quando c'è la vera espressione della creazione, Yahad Shivte Israel, quando tutti i rami sono uniti.